Componimento 58° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. La guancia che fu già piangendo stanca, riposate su l'un, signor mio caro, e siate ormai di voi stesso più avaro a quel crudel che suoi seguaci imbianca. Con l'altro richiudete da man manca la strada a messi suoi ch'indi passaro, mostrandovi un d'agosto e di genaro, perché alla lunga via tempo ne manca. E col terzo bevete un suco d'erba che purghe ogni pensier che il cor affligge, dolce alla fine e nel principio acerba. Me riponete ove il piacere si serba, tal chi non tema del nocchier di stige se la preghiera mia non è superba. Fine del componimento.